Euroreportage. La cultura pedala in Europa, di Silvia Bernardi. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutto una... La cultura ha iniziato a pedalare più in fretta da quando gli economisti l'hanno indicata come fonte di reddito. Con il semestre di presidenza appena iniziato, la cultura rischia però di rimanere offuscata da altri temi, come l'economia, l'agricoltura, l'occupazione, i consumi. I paesi che hanno attuato politiche di investimento culturale ne hanno guadagnato in termini di sviluppo, coesione sociale e internazionalizzazione. Due le forze in gioco, un solo movimento. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Sei libero il pignone. In Francia, negli ultimi anni, il patrimonio culturale ha generato un ritorno di 8 miliardi di euro e recenti studi britannici hanno dimostrato che il cultural heritage è in grado di offrire un elevato ritorno sugli investimenti. Ogni euro investito può generare fino a 1,60 euro di guadagno in altre attività economiche. Per la Federazione Europea dell'Industria Edile, nel 2013, le ristrutturazioni e la manutenzione di beni culturali hanno rappresentato il 27,5% del valore del settore delle costruzioni in Europa. Nello stesso periodo, il 52% dei cittadini dell'UE ha visitato almeno un monumento storico e il 37% un museo o una galleria nei rispettivi paesi. Parte da questi numeri la scalata della cultura, che da ultima della fila allo sportello dei programmi di governo sta cercando di riconquistare posizioni per pesare di più nella bilancia dei finanziamenti nazionali ed europei. Per la cultura, l'Europa ha messo a disposizione 1,46 miliardi di euro, con Europa Creativa da investire nei prossimi 5 anni. Quasi un anno dopo l'approvazione dei fondi per la cultura, creatività e audiovisivo, Silvia Costa, neoeletta presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, durante la prima riunione di commissione, ha presentato 2 emendamenti per evitare ulteriori tagli ai fondi per il 2015, previsti intorno al 3,3%. Credo che sia molto importante in questo primo anno 2015 di attuazione dei nuovi programmi pluriennali, di cui anche Sole 24 Ore ha molto parlato, cioè Europa Creativa, ma pensiamo anche a Horizon 2020, che contiene molti riferimenti al patrimonio culturale, per esempio alla digitalizzazione e alla ricerca. Penso anche ai fondi strutturali europei, di cui sono partiti adesso da parte anche delle regioni italiane e gli accordi di partenariato degli Stati membri con la Commissione europea. Ecco che questo anno sia indicativo di una volontà coerente del Parlamento e dell'Unione europea nel suo complesso di mettere davvero al centro una maggiore considerazione della valorizzazione del patrimonio culturale. E quindi è stato abbastanza preoccupante un po' l'aver notato che rispetto alla Commissione europea che ha predisposto il suo programma di bilancio, il suo documento di bilancio a giugno, perché ci sono state le elezioni europee, quindi ha avuto un ritardo, e il Consiglio dei Ministri si è riunito appunto nell'ambito del primo Consiglio presieduto anche dalla Presidenza italiana, e mentre ha rispettato, e questo è importante, che la mia Commissione riguarda anche l'educazione, ha rispettato il bilancio previsto per tutto il settore educativo, pensiamo soltanto Erasmus per dire un programma, invece nella rubrica che riguarda anche, non solo, ma riguarda anche Europa Creativa, riguarda Europa per i cittadini e Europeana, questa grande banca dati digitale del patrimonio culturale, e vediamo un meno 3,3%. Questo non va bene, abbiamo chiesto come Commissione, io come Presidente della Commissione relatore del budget, ho proposto emendamenti che non solo ripristinavano questa cifra, ma che anzi davano un segnale di aumento, perché penso che sia da tenere presente che ci sarà sicuramente un impatto di molte richieste, di molti progetti, e quindi in questo senso io penso che dobbiamo batterci come Commissione Cultura. Ho visto un consenso piuttosto generale nella Commissione perché si approvino questi emendamenti e si faccia un bel lavoro con la Commissione Budget del Parlamento. L'Europa ha l'obbligo di garantire la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo, dice l'articolo 3.3 del Trattato sull'Unione. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, precisa l'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE. L'Europa, eletta il 25 maggio, sarà capace di attuare queste direttive? Ha gli strumenti e la volontà per farlo? L'occasione c'è. I fondi per il Cultural Heritage europeo sono stati stanziati e sono disponibili nei programmi pluriennali Horizon 2020, Europa Creativa, Europeana, che entrano nel loro secondo anno di programmazione. Ma la cultura è pronta per il passaporto europeo? Nel frattempo, in Europa la Commissione ha dato il via ad una serie di nuovi studi per disegnare la geografia della cultura europea, includendo il patrimonio culturale, ad oggi escluso nei parametri di valutazione. Dove stiamo perdendo in competitività? Una risposta possiamo già darla. Quello che ci penalizza rispetto ad altri paesi dell'UE è l'assenza di un'azione nazionale sistematica. Nonostante tutti siano in grado di affermare che la cultura è un valore, non abbiamo un osservatorio nazionale in grado di dare le direttive alle azioni di sistema da mettere in campo. Meglio una strategia imperfetta che nessuna strategia, dice Erminia Sciacchitano, esperto nazionale distaccato presso la Direzione Generale Educazione, Giovani, Cultura e Sport della Commissione Europea. Noi per lunghi anni abbiamo sottovalutato l'importanza del settore culturale e creativo come vettore di sviluppo e qualità sociale per l'Europa, mentre oggi i dati ci confermano che è molto importante. In Italia in particolare abbiamo il rapporto elaborato dalla Fondazione Simbola Union Camere, che è il dato più recente, che ci dice che il settore muove 214 miliardi di euro ed è circa il 15,3% del valore aggiunto nazionale, quindi un settore molto importante e in aggiunta è un settore che cresce nonostante la crisi e che ha un effetto moltiplicatore su tutta l'economia. Le imprese italiane incorporano cultura, qualità e bellezza nel marchio reputazionale che chiamiamo Made in Italy e che ci posiziona e ci distingue nel mondo e che quindi è un vantaggio competitivo per il nostro paese. Non possiamo sederci sugli allori anche se abbiamo finalmente raggiunto questi risultati, perché mentre in Italia gli esperti faticavano a riconoscere questo valore, il mondo ci ha sempre visto come il paese leader da battere. E per rendersene conto bastava leggere uno dei tanti rapporti internazionali sull'economia creativa, dove l'Italia era terza per esportazione di beni nel settore creativo fra i paesi a economia sviluppata e quinta a livello globale. Ora, ai tempi della Guerra Fredda si diceva, fra i campioni di scacchi, meglio una cattiva strategia che nessuna strategia. Ora che la partita a scacchi si gioca a livello mondiale, senza una strategia sulle industrie culturali e creative rischiamo il sorpasso. Anche perché paesi come la Corea del Sud, la Cina, l'India, paesi europei come il Regno Unito, Olanda, Finlandia, Danimarca stanno investendo fortemente e mettono a punto delle specifiche strategie, d'accordo con i portatori di interesse, per supportare e incentivare l'imprenditoria nel settore culturale e creativo. L'Italia nello scacchiere europeo non veste la maglia rosa. Molte aspettative si giocano nel semestre di presidenza italiana e l'identità della politica culturale di questa ottava legislatura sarà più chiara dopo il 23-24 settembre, quando i ministri della cultura di tutti i paesi europei si troveranno a Torino per definire il modello di politica culturale per i prossimi anni. Intanto nel programma della presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, un documento di 80 pagine in cui si delineano le linee di governo, bisogna arrivare a due pagine dalla fine per leggere che obiettivo della presidenza sarà quello di portare la cultura e il patrimonio culturale al centro della strategia europea, come dice a Radio 24 il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Convincendo gli altri paesi, nel senso che siamo in previsione di Europa 2020, bisogna ridiscutere. È paradossale che l'Europa che ha come propria ricchezza la cultura, la storia, il patrimonio, la creatività, sono le vere carte nella competizione globale, non abbia la cultura come uno dei temi centrali, con un trasferimento anche reale di competenze e di sovranità all'Europa, soprattutto in un campo in cui le frontiere contano molto molto poco, contano sempre meno ed è difficile affrontare sia il patrimonio, che il diritto d'autore, che potrei andare avanti in elenco, una serie di problemi legati alla cultura, è sempre più difficile affrontarli dentro confini nazionali. Serve una politica sovranazionale. L'Italia guida il semestre europeo, io già nel documento che lei ha citato, nella lettera che ho inviato ai 27 ministri della cultura, oltre al sottoscritto, in previsione dei due incontri di settembre a Venaria e di novembre a Bruxelles, che ho indicato una serie di priorità dell'agenda del semestre. Una di queste è proprio capire se c'è una condivisione di tutti i paesi perché la cultura si diventi uno dei temi centrali nel ridisegno delle competenze europee. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Per il riscatto della cultura serve quindi l'impegno di tutti. In Europa infatti non si va in ordine sparso, non si improvvisa. In Europa una voce singola si disperde. In Europa un'idea, per quanto buona, non attecchisce se prima non viene preparato il terreno. Occorre proseguire in questo impegno e cogliere anche l'opportunità che si è aperta. Durante il semestre di presidenza italiana si concluderà la consultazione pubblica sulla revisione della strategia Europa 2020. Riusciranno l'Italia e l'Europa a tenere fede alle direttive che si sono date e a riportare la cultura nel cuore del progetto europeo? Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.